Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gegé Telesforo. Buonasera a tutti, buona domenica da Gegé Telesforo qui dal Groovemaster Studio di Radio 24 per un altro appuntamento dedicato al jazz, come sempre la domenica sera, qui per il soundcheck, la nostra prova del suono. Sì, il jazz, musica sempre in evoluzione, evoluzione che è avvenuta spesso negli ultimi 100 anni per i formidabili incontri che sono avvenuti soprattutto in una città importante per questa musica come New York. Pensate che fra la metà degli anni 50 i primi anni 60 il jazz a New York era rappresentato al massimo del suo potenziale perché erano in attività e ancora in vita i grandi esponenti, i grandi inventori di questa musica, da Charlie Parker, che poi morì nel 1955, a Dizzy Gillespie, quindi gli eroi del bebop, ma anche gli eroi della swing era. I due grandi direttori d'orchestra come Duke Ellington e Count Basie erano in attività, Miles Davis e John Coltrane stavano cambiando il corso della musica, insomma un periodo importante e un periodo che è stato fermato discograficamente anche per il lavoro di grandi producer come Bob Tilly, che nel 1961, esattamente il 3 di aprile, nello studio 1 della RCA Victor, lì sulla 24esima strada di Manhattan a New York, riunisce il quintetto di Louis Armstrong, quindi la sua All Stars con Barnaby Gard al clarinetto, Tommy Young al trombone, il bassista Mort Herbert e il batterista Danny Barcellona, per un incontro speciale, quello con un pianista, pianista d'eccezione, direttore d'orchestra, l'uomo che con la sua big band aveva cambiato il suono e il corso della swing era, e quindi Duke Ellington. E sì, due formidabili campioni di musica, il re del jazz Louis Armstrong con Duke Ellington, dà vita nel 1961 a una versione contemporanea di quel brano scritto nel 1931 da Duke Ellington, brano manifesto della swing era e del jazz. It Dominant Thing If He Ain't Got The Swing, qui al soundcheck di Radio 24, Louis Armstrong All Stars con Duke Ellington da The Great Summit 1961. E dopo aver incontrato Louis Armstrong nell'aprile del 1961, Duke Ellington corona un altro sogno: portare in studio di registrazione nel luglio del 61 la sua big band per sfidare la big band di Count Basie. Sì, i due grandi maestri, i due pianisti, i due direttori d'orchestra, le due big band rivali nel periodo della swing era, insieme per dar vita a un album meraviglioso intitolato First Time, la prima volta. The Count Meets the Duke, un incontro al vertice, il suono dirompente dei migliori musicisti di New York, in questa versione di Jumpin' at the Woodside, brano sigla della big band di Count Basie, e naturalmente più di così era impossibile. Eccoli qui, Duke Ellington e Count Basie al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E i grandi maestri del jazz danno la possibilità ai più giovani di affiancarli sul palcoscenico e di fare le loro prime esperienze in studio di registrazione, cosa che fa anche Charlie Parker il 17 gennaio del 1951, quando realizzò questo brano, un blues intitolato KC Blues, dedicato alla città di Kansas City, portando con sé Max Roach, giovanissimo, alla batteria, Teddy Kotick al contrabbasso, Walter Bishop al pianoforte e un giovanissimo talento alla tromba chiamato Miles Davis. Era il 51, una decade importante anche per Miles Davis, che pochi anni dopo, nel 57, realizzò The Birth of the Cool e poi nel 59 Kind of Blue. Ma prima di entrare in studio di registrazione Miles Davis per realizzare Kind of Blue, c'era stato un altro incontro importante, esattamente nello studio B della Universal Recording Studios di Chicago, nell'Illinois, incontro fra due giovani talenti del sassofono. Il contraltista Julian Conobal Adderley incontra John Coltrane al tenore, con Wynton Kelly al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Jimmy Cobb alla batteria, per realizzare Conobal Adderley Quintet in Chicago, album che poi fu pubblicato nel 64 sotto il nome di Conobal e Coltrane, che poi ebbe grande successo anche perché arrivò Kind of Blue, che fece la storia del jazz con l'incontro fra i musicisti più importanti della nuova generazione. Ma vediamo allora Conobal Adderley con il suo quintetto insieme a John Coltrane, il brano, una sua composizione, intitolata Wabash, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. E questa sera stiamo raccontando l'evoluzione del jazz attraverso alcuni incontri importanti, così come fu importante per Miles Davis lavorare nel 1951, nei primi anni 50, col grande Charlie Parker, incontrare l'arrangiatore Gil Evans nel 1957 per realizzare Birth of the Cool. Ma finalmente arriviamo al 1959, dopo aver ascoltato l'album capolavoro dei due giovani sassofonisti Conobal Adderley e John Coltrane. Miles Davis pensa di scrivere nuova musica e di realizzare per la nuova casa discografica Columbia, con la quale firmò un contratto importante da un punto di vista economico, di realizzare un disco che poi segnerà la storia del jazz. L'album si intitolerà Kind of Blue e protagonisti di questa registrazione sono Miles Davis alla tromba, Julian Conobal Adderley al contralto, John Coltrane al sax tenore, Bill Evans al pianoforte. In un solo brano c'è Wynton Kelly che realizza Freddie Freeloader, il miglior contrabbassista di New York allora, Paul Chambers, e Jimmy Cobb alla batteria. Sì, la leggenda narra che registrarono un take per ogni brano, poi abbiamo scoperto che alla fine registrarono 3-4 take per ogni composizione inserita in Kind of Blue, però la cosa vera è che Miles Davis si presentò in studio di registrazione senza fare prove, soltanto con degli appunti, con le linee melodiche e gli accordi, e quindi tutto fu realizzato alla luce del giorno negli studi della Columbia sulla 30ª strada di New York il 2 marzo del 1959. Album capolavoro, l'album forse più importante del jazz contemporaneo, Kind of Blue, con il quale chiudiamo questa puntata del nostro Soundcheck, con un brano di durata impossibile oggi, 11 minuti e 34 secondi per All Blues. Noi ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle 19:15 per la prova del suono di Radio 24. A tutti voi, buona domenica, buona settimana e buona musica da GG Telesforo.